misero mi. Ci sei, Luca? Oh, yeah. Cosa ti fa male? Ehi, te di dole, già matta, e te dolore, è tutt'ore. Oi, oi, oi. Arracca tu, mi tocca andare a pagamento, ma fammi i piccitti. E tu paghi. E a chi ci vuole, a questo punto mi sono rompito di cazzo, devo andare a fare il tutto a pagamento. Se questo giovedì, non ce n'è, a dicembre. E devo dirigere a dicembre. Cazzo. Ma io ti macchino. Diventi una dalta, diventi. Oh, yeah, yeah. Ah, aspetta, cosa aspetta. C'ho già l'appuntamento a mercoledì prossimo, alle 18. Amaro 18? E alle 6. Ore 18, mercoledì. Ma signorina, ho entrato, Oggi, boh, è due giallate, sentisti. Lui dice agli altri, ma sentite anche lui. Soprattutto lui. Lorenzano non aveva piantato, la sera non ne parevamo. Te daranno 200 un dito. E si hanno abbracciato un coso. Un cecchipaone, gli arbrido. Allora imparando a fare un cinetto, buro. Siamo a posto. E mi diceva se paghissimo che non vengono a mandarlo. A chi si vuole fare un cinetto? Ha detto che le costruendo. Sta costruendo la culla per il bambino. In fino di Svezia. E allora, piano di Svezia. Ah, no, te me l'ho mandato in foto. Piano di Svezia, vero, ma bella, Mi ha mandato il progetto, le foto, bello veramente. Dimmi tu, il progetto non l'ha fatto. E allora? Ma mi dà del scritto, era un coso, una spalliera. Sarà scritto nella spalliera? Daddy, mammi. Ha detto, magari mammi e daddy però in occhio. E mommy. Mammo. Chiameremo mammolo. Ci sarà. E l'ambo cresce così, così cresce, come ti dico che cresce. Ah, merda. Che prendiamo un fianco. Secondo me sì. Ci andrà a accompagnare all'asilo, lo voglio vedere. Tutti già vanno mamma babbo. E mai tu già mandarli, mami? E lui si deve cantare canzoni. Mami, mami. Oh yeah. C'è il cane che ammazza, che vuole un pezzo del panino di mia moglie. Mia moglie e mettergli un panino. E il cane ti vuole un pezzo. Dai, un biscottino. Io faccio i biscottini, è meglio. E di guardare. latini che panini di cioccolato. C'è proprio il viaggio, mio chissi. Prima però ci ho venduto gli ugla. E anche lui i biscottini. Lui vuole la roba che mangiamo noi. Non ha compreso. Che sono i biscottini? Qua no, anche lui mangia la pappa sua, no? C'ha le bustine, c'ha... però Manzano vuole un biscottino. Manzano, allora, biscottino, lo lancia in terrazzo, tutto giù in yoga, brimma, lo lancia, lo fa, si razza, lo vara, la musica lo magna. Oggi mi le cagio da me quella di plastica senza bisogni. Cazzo, come entri la vita, la credita l'ha distrutta, l'ha disintegrata, saluti, chissà in pulla di plastica, ma vada da chiudi. Lo so, mi piacciono i rumori, già anche la mia fa così, la bisigra, quasi, anche i tappi, io li lancio i tappi di Michelin, no? Che se io fanno che tu, c'è un po' con le bianche. Sì, sì. Poi che ci ha fatto per domandarlo? E mo? Perché poi è il pulsante. E quello me lo sono fatto oggi pomeriggio, l'avevo finito. Ho preparato un po'. No, anche un'altra foto ti ho mandato, non so se ti è arrivato. Sì, io so che il pulsante di sui vendini è poco costa e tanto rende. Aspetta un attimo che la guardo, no? Un'altra me ne hai mandato di posto. Prima il pulsante la buona tra voto. Attento signorini. Non ti rispondi. Ma che prendi l'uncinetto, gatta. Io non canso le frigande la guccia, va la guccia, la culla. E a chi è bravo il suo travaglio. E quindi sarà le frigande forse. A chi mi travaglio lucida. Vabbè, mi trova quasi verde acqua, non so cosa, boh. Cosa dici tu? La vernice all'acqua usa lui. Colori pastello, vedi, va. A chi ha paone, il biasimo sicuro. Soia. Vuoi dire, sapere, lo parenti soia, va, per lo dico. Lo parenti soia, per dire quella a Rubiglioso di signorini di Giacchi Maone. E quella chiesa è la contraria, che cose, boh, e poi ci hanno fatto vedere l'affido, in Cesia, boh. In Cesia ci sono qui vati. Non hai visto il video? No, negativo. Io mi immagino quelle parole, mi prende come moglie. Ma il mondo si è proprio buccio nendice. Il mondo diventa nebranzo. Davvero? La bella si dice un malato. Domani, aspetti, manda la foto, domani dovrebbero consegnarmi questo, mi aspetto. Oh, mamma, hola. E cosa devi, quindi su devi domani? Non ho capito. Ma ti è arrivato o lo devi vendere? No, dovrebbe arrivare domani. Domani? No, a me lo vengo. C'ho anche... Aspetta, ti mando a fare quello che c'ho già. Chi fa di tutto, chi su di va, giù è tu. Finito a 1200 arrivi. Ah, quindi della Diamond. Aspetta. Ah, e quello lì, sì, io ho le 6200. E qui se ne aggiungo 207, 200, 400, 600, 1100 anche ho avuto. Questo è il più grande di tutta la categoria. Infatti se leggi c'è scritto anche... no, ultimo, caspita, no, questi sono professionali. E non ti bonifici il gallo di ZG Intec, ma... Sì, infatti. Cazzare è magato di due aghi incrociati. Qui c'è mezzo, me la dai va quello lì. Sì, l'hanno già avuto, contratto nuovo di pacca la cosa, da... mentre già, ma... Media Globe. nuovo, l'avevo conosciuto, nuovo, per cui c'era un bel pure all'epoca. Infatti l'avevo mandato a Fatan Marco, se ne era innamorato e si era comprato il Dubulla, Marcolino. Sì, già lo so. E comunque sia, c'è lo stretto la città, sembra un televisore. Lì è mano anche il 44, ma... Sì, io lo so quel mano. Secondo me l'aveva agito anche contro... ma costa troppo, se no me l'avrei comprato. Devi aspettare sempre che lo mettano usato, capito? Tentarli questi. No, ovviamente questo qua l'ha messo un'altra cosa in vendita, vicino c'era quello. E gli avevo mandato un messaggio se stava venendo anche quello lì. Mi ha detto, se vuoi sì. Mi ha detto, ce l'ho 2 mesi, mi ha comprato nuovo, mi ha detto, ce l'ho scontrino e tutto. E mi ha fatto quel prezzo lì, ha detto, mandamelo subito. Io me lo devo buscare uno così. Ma questa moglie è pizzeria. Mi piacciono molto anche perché ci vedono meglio. Sì. Ma guarda, anche questi da Proxel non scherzano, sono granditi anche questi. E precisi. Sì, già lo so. Che poi non ce l'ho qua, le 6000, però è della Diamond, il mio. Sono professionali, sì. Sì, Guido va là che più mani e più mano in tutto, quello sì. Io lo volevo per questione di vederlo. Che fa effetto contrario. No. Non c'è, la mi fa quella cosa. Succede qualcosa. E cosa mi succede? E se ne ha fatto il beggio, raga, lo fa. Sono il prezzo folle hanno fatto. Le cose come sono, e loro non hanno messo. Me lo stavo comprando, però è nuovo, costa un sacco di soldi. Beh, andate lì a ritirarti chissà cosa, chissà casa o... Allora un attimo ci vado, ho preso appuntamento tramite l'applicazione, un attimo, ho preso appuntamento, se ci ho 5 minuti prima, tanto mi ricontrollo da qua i numeri, non dal telefono. Anda bene Meda. La vedete? Sì. Anzi, di prima, addirittura. Così oggi compreso, cos'è che hai detto? Che l'importo è anche più alto di quelli di prima. Capito, solo di quelli di prima. Che l'importo è alto, ma non so se aspetta. È più alto di quelli di prima. No, a me ma se si cosa mi hanno dato. Lì è sconvolta, non riesce a capire. No, non è così. Ma a me la stessa cosa mi hanno dato, mi vedrai. Mi ha detto a me il caffè. Ma che bello sul veicolarino. Cosa lui? Un veicolarino che ti hanno dato, carino, hai visto? Non ho capito un cavolo. Ho detto quel veicolarino che ti avevo mandato la foto. Sì, già l'ho visto. Che carino, no? Com'è? Che carino. Sì, già l'ho visto. Attento, fregnami gli appunti. No, venendo arrivato, a me più allenti la gulla non si vuole fissando. Non risponde, no. Che sta facendo l'uncinetto. Allora di chi difende? Ecco. Ma questi non entra. Come è che sta facendo la gulla? Sarà per lì il servizio completo, mi compreso. A chi è arrivato da Magrino? Sì, mi ha mandato una foto tutte le due parole usate di asili a dondolo. Chi ha fatto pure l'asili a dondolo? Ma tanto sono curiosi. Chi c'era? Lo brava gli usuio. È logico che rifà di lei. Come abbiamo visto, forse stazionava lì. Sarà stato curioso, sì. Si vede a Paone, Paone Uncinetto, mezzo Don Dolendi. E tanto sono belli. E un altro ritorno, bambino. Ma la Zucchi, e ti allende tutto il bianco. Poi non mi hai di questo. C'era quella bianica in mano, va, ti allendi. Ma si chiama bianica. Ma è ora duccato qui su cosa, non si comprende un cavolo, tu guarda, l'hanno abbassato perché non mi sentivi. Era troppo forte, rimbomba a me. La caro Cusini. Ok. Kappa. Di tanto metto la batteria a caricare. Cazzo ci vuoi sapere questa cosa, ma ha ragione. Ed è a minimo dai così, dalla regolazione. Allora, così, un tasto. Castino, cosa cambia? Boh, non lo so perché non mi sta ascoltando. Da così a così, boh, non c'è una ruga. No, aspetta, guarda questo invece. Così cambia, no? Niente, 1, 2, 3, rimetto com'era, 1, 2, 3. No, nulla. E così, al terzo coso invece niente. La radio è un po' più losca ti fa. Ti occupa? Sì. Ma era meglio prima? Sì, alla gara comincerà prima, dai, che è più bella. Ok. Posizione tasto numero 1. Chiara chiara. C'è un bel effetto, va. Sento, 1, 2, 3, 1, 2, 3, acceso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 9. 5, 9, 5, 9. 5, 9 più 20. Attento, fagnami i punti. Smatro effetto, aiuto, entra. Se va la Recci, commenti due radar. E allora? E non entra, gatta. L'ha già detto pure un smatro effetto, non entra. No, non entra, l'hanno fatto che si arrendi. Boh. Sì, cavolo. E cosa entra qua? Mangiano, mangiano, si entra a mezz'ora, intendiciamente. Secondo si vuole che si scende in letto, ma poi guarda, scende in letto Rosa, chi vi ha regalato il paone. Ah, così è. Rosa vi ha regalato. Sì, pane di dramazzo, il mare. Perché ha detto non fare rumore, mettiti le scende in letto, perché se non mi graffi il perché. E lì. Sì, se non ci sono sabato, va a pescare, non so. Adesso vedo, domani faccio queste commissioni. Che fa? Cazzaretti si va, l'hanno recintati. Ma io non capisco, non concepisco questa cosa, boh, di bar così sul mare, sulla spiaggia. Cazzo, non riesci a farli andare. E cosa? Quei bar che ci sono lì, chiusi, abbandonati. Sì, io via. In inverno non parla nessuno. La gravità della situazione. E chi magari sì, ma in inverno. Ho capito, ma tu vedi il bar che c'è l'unico che va a Bisu, che sono andato tutto l'anno a Bisu, e poi vuol dire che non tanto grande, che quando io vanno in buio da Bacchino, però cioè, le abitudini della zona ci sono, perché il bar è così, ma la gente chi vede a mangiare uno. E Bisu che a Bisu, chi li hanno a medienti sempre? Grazie che no. È un peccato, non lo so perché. L'ultimo manetto si è piegato in denaro, so cosa, buona, è stato un casino, si è tornato a Roma, un barriere romano, figurati un po'. Bloccato, sono i giorni prima del massacro. Ah, quello che stai dicendo tu, quello sì, ed è caro Bulu Ghisu. C'è una vita quello, c'è una vita. Andavate, sta ricordica per... Allora dico che c'è più commerciale. E quello c'è una vita sì, l'ho sempre conosciuto io. Non so più cosa i buoni che da uno di questi due pazzi, buoni, due belle ragazze, tutte mezzo cose, mezzo scolle, via, a R di fare la gente. Ma vedete tu, questo per esempio. Qui in sopra non fanno bene nessuno, ci mette due ragazze che ci sanno fare e si vede che vanno qui qua, capito? Due di quelle ungheresi, mi? E altre, guarda, sembra così, ma... Ma c'è, tutta dai paesi, mi viene a pigliarsi un caffè. Dai paesi, sicuramente. Allora, chi tu si biuda? Mi sa di beguri alla zona da cane. Ah no, mi sa di beguri a regani. Sa cosa? A trasumanza all'azini. A vero mi. Che ne goa. Ah, vuoi mettere poi con quelle belle verandine che hanno la faccia a mare, a pigliarti un caffè o fare un... anche a pranzarci, non so, mangiate un panino, una mortadella, padiba, dugaggio, fate chivi, la faccia a mare, ma vuoi mettere? Mette, credo, poi con un panorama del genere, vedi due belle ungheresi che ti servono lì, in grembiulino. Grembiulino col pizzo, cazzarrette, dato ti dava i rabbini a pigliarsi un caffè. Io dico gatta che si marciano di dei paesi, pensare di quella la molla. Sì, sì, sì, perché veramente ci mette due ragazze russi spitturati. Lui ha. Ah, niente, adesso che mangiano già i libri. Ehi, arrivinco. Si che andano a piccarsi. Ehi, ma scusa, andano in una pesca, senza un mulinello buio. Dice, va contentato, capito, a casa. Sì, che ne go, ma scusa. Copri caffè e fuori qualcos'altro, ya? Fuori cappuccino, cornetto, caldo caldo. E allora? Culturati dal padre. Chi si bacia o rianda, negato? E dice, che ne go, bella, bella, ya, bella, bella, bella, bella. Mi va il mamontone spurgo. Sì, beh, pensavi di non avere i bici nei bene, ragazzi. Peccato veramente, peccato veramente. Beh, scusami, in una stagione sono andato di massimo di stagione a voi, Sarra. E che poi sono carini, perché sono piccoli, non è che sono mani da gestire, dico. Boh, qualcuno già l'ha fatto andare bene, qualcuno ci è riuscito a farli andare d'estate soprattutto. E boh, e sono tutti già arrabbi così. L'hanno recintato uno, l'hanno recintato, quello che c'ha i cosi, le gabbine, quello lì l'hanno recintato, chiuso con le transenne. Ma è stato approvato nell'81. Ma non è, sono chiusi solo l'inverno e in estate riaprono, no? Magari. No. Uno era aperto addirittura, nel fumo adoaiano, dentro c'erano il registratore di casa buttato a terra, tutto un casino dai vandali. E commenti che hanno lasciato uscire e ci sono andati. Sì. Peccato veramente, qui in Marlì, peccato veramente. E poi con le spiagge estate sono piene. Infatti è pieno di enti, in chi è pieno. Ma secondo me è una questione di tasse o perché giustamente di pagare il personale, a fine mese o a fine stagione, anche da lui verrà buio passando. Se non sei attento, dimentami, facciami tanto bene, adesso più di danni che ne baga ghiaccio, che ne so che hai guadagnato. Sì, infatti, chi su che sempre ha messo, in chi dice ha di miei? Sì, quelli sì, abitano lì, mi sa, scheso, di bassi. E allora, in chi abitano loro lì? Non viene bene a rompirli i ricattoli, un preso. Chi si è fatto ritirare in Chivi? Ha trovato un da vacchini in Chivi. Lo salutate. Sì, poi da qualche anno ha aperto a fianco, hai visto che ha aperto, ha messo i tavolini anche lì all'ombra, dentro il coso, sta benissimo anche lì comunque. Certo, il servizio lascia desiderare, perché si non pone una gentile, tutta vedra a prim tutti i bici, so. Oggi c'è una giovane. Sì, che bello sia la moglie. Oh, che di noghi, la moglie è straniera. Oh, no. C'è una ragazza, c'è lì, mi pare che sia di Boccio d'Oro. Con un'aggressione oppure? Comunque già ha avuto fortuna. Chissà sempre a bici, visto, va da Vacchino, va a Rubar, lì da Orini vola, Visò, e insomma, già va bene la situazione lì. E poi c'è sempre gente anche d'inverno. Sì, ma poi hai visto lì a fianco dove ha fatto qualcosa, come ci mette i tavolini, lì bisogna vedere la griglia a gas, con il cavallo, fare cavallo così, lui è un profumo, iaia, la vesi, la si vede la birra, si mangia un banino. Comunque è caro quello, alza dura Grecia. Vero. Quello lì entra in Chivi ed è una farmacia. Si lascia la missione, si lascia. E molti ci hanno per ritrovarsi lì, farsi da quattro chiacchiere, gente che abita in zona sicuramente. E ogni di farà Bruno lì, Bruno Lagano, lo farà anch'io ogni di. Io non so, non lo conosco, così che non ti posso dire che l'ho visto qualche volta. anche per Antonello, i cardini va un camper, sta nel camper Antonello, l'amico di Bruno. Io visto il camper, quindi sono sempre parcheggiati. Lo so. Bisogna una pianista in mano, visto che in più settimane è più allenta di la gulla. Dopo ha abbigliato questo bambolotto di Piegna che ha detto allenamento, Balanasce, Bizzelletto, e fa un allenamento, Mimendio. Infatti vai fuori allenamento, sì. C'è alcuna che l'ha fatta 2 metri ma 4, cazzo, boh, c'è un ipopotamo. Cazzo, boh, lo dico io. Ma c'è una quella che l'ha fatto. Allora, crepi la parizia. C'è una gamba la vivo, c'è un barculla. E che ha detto a voi, se ti cocca in tutti impari, no? Che buona culla l'ha fatta a dondolo. Ma che ha detto, se ti cocca in tutte e quattro, ho capito. Paese della parapetta madura. Allora, ti sei avvicinato a voi con un paone e con Cristoforo, ma te già, ma marito. A voi. Mi sono biondino, me. Non si sa che ha fatto la pelle in Auromaccio, lui. Non lo so, veramente, non capisco se fa notturno o veramente, Beh, il paone è un poco, ma... Sì, un poco biglia, è un poco tardi. Siccome è, beh, io sì, è un po' gonfio il bare, no? Beh, sì, lancia la saponetta che vi ben su io. Niente, si intende, lancia la piallita, via. Quando lancia la piallita, tira la macca di raggi. Tu ti rientrava, va via la macchina, va via, tu nel laboratorio e ti allava tutto con la macchina, la vai a giocare a mano. E allora era più conveniente a macchina. Però dici che è più preciso a mano, Sì, questo me l'ha detto a me pure. E te l'ha insegnato coso, mi ha insegnato a filo filo. Maestro Geppetto l'aveva insegnato. Non ha già appunta, ve l'ha fatto Eddo, hai compreso? Non ha già appunta, ve l'ha fatto Eddo. Gaia, secondo. Non ventra. Ma non è niente su a Gianni Giamendi. Poi ho detto di bu. Io l'ho sentita Gianni qua. Stamattina. No, io non l'ho sentito io. Ero combattente. Ha preso mio, è successo qualche cosa con lo speed mio. Forse in qualche modo rimediato. Non mi dà che entrava primo. Non te la dà entrare. Mi avrà disattivato qualcosa perché ho fatto troppi tentativi, dice. Ora sto sbagliando la password. No, che il giudice ha la password. Siamo al momento della verità. È pure il numero. Il video è uno solo. È stato però lo codice no. Metti quel codice lì e ti fa entrare. Perlomeno era così. Che ospite, ne ho fatto un casino, ne ho fatto. L'avevo fatto in posta, l'ho fatto. Me l'ha fatto il direttore. Ma ho preso 10-15 minuti per fare tutto quanto. Cosa ti dico? Allora mi compare giù sul lettore una ragazza di identità elettronica e non è entrato giù speed. Se non mi fa entrare ce la prende in gomme di vostra mano. Il supporto fa. No. Per un po'. Infatti. Tanto è abilitata quella carta di identità elettronica che ho io. Col telefono già la posso usare. Inquadro, tac, ed è fatto. Acceso. No, anche col telefono la posso usare, la carta d'identità elettronica. Circa 60 ore prima del ritorno. l'altra volta non mi funzionava attorno allo spiriti, no. E allora quella del CAF ha usato la carta di identità elettronica per entrare, perché doveva entrare nell'INPS. Tramite il QR code? E col telefono, no. Appoggi la carta di identità e gli dai un codice e ti va ad entrare. Non ho capito. Adesso mi compro quel lettore, così lo attacco via USB al computer. Quando l'arrivo data, la bonga in chi viene fatto. Ma è una comodità anche quella. Ma diciamo che tu spidi, ogni adatto di contrasteggia. Quando mandi in papi papi. Ordandi. Luca, me lo fai? Il fusto della Glock 17. Luca. Dimmi. Me lo fai il fusto della Glock 17? Il? Non ti capisco. Ho detto il? Ho detto, se mi fai il fusto della Glock 17, così ne ho due. E come te il fusto? Tutto in polimeri è. Cosa mi fa? Doppio comando? Sì. Ma ti dice il burviso, le cose da stampare con le pistole. Sì, ma è illegale, non si può fare, dici. Ma con il burro è diventato un cacciatore, infatti burro. La carabina e il bazooka c'è comparendo. Sì, a Marcolino. È diventato cosa? È diventato se sceriffo, come ti chiama? Rambo sarà diventato. Sì, tu sono fatto una fascia a burro, in diagonale, la bitorra. Arriva Mambo, vai, no Rambo. Ma sai perché è illegale? Perché c'è la matricola pure lì. Io non so quale silenziatore, non lo uso. E come fai a applicarlo, no? Ci vuole un pezzo di canna fuori, capito? Quello non ce l'ha, quello il coso. No, visa vira a Trento, non è sicura di Ganna, no. Un pezzaredo e boh. Non ce la fai a evitare, e poi non si può detenere in Italia, è proibito. Ah, Giulio te lo guardi in legno. Cosa? Giulio te lo fa in legno. Giulio sì. Mi serve la biallita, è male. Io volendo lo so fare, ma è illegale, non lo puoi tenere in Italia. Non si può né comprare né detenere. E poi se non ci stai più andando neanche al coso. Comunque ho detto, ma è così, ma ne ha voluto di andare ai chirurghi. Faccio un sacco di dinara, a divisisce alla fine, chi manda tiro a piattello, chi lo fa per divertimento, certo chi lo fa per lavoro, tipo poliziotti, queste robe qui, vigilanza, che sono obbligati a andare ogni tot a fare queste cose qua, magari quasi quanto tempo a divisimento, comunque sì, abbasci un bel di dinara. No, ok, io me le caricavo io le cartucce. Vabbè, non ce l'ha a comprare, boh, non lo so, materiale. Boh. Sì, la polvere devi comprare gli inneschi, i bussoli te li raccogli, come facevo io, e me li caricavo, io sparavo un bene, non è come quando si va al poligono che massimo spari 50 colpi, le devi comprare lì le cartucce, è un casino, cazzo io ne sparavo 200 ogni volta che andavo. Sì che poi raccogli, anche nonno faceva sì, ma te se mi aveva fatto vedere come ti faceva le casciucce per il fucile, amore, tutto quanto va via, tutta la macchinetta, l'isarrava, perché all'epoca si usavano quelli di cartone, ti ricordi le cartucce, e se le raccoglieva, poi quando tornava a casa, durante la settimana poi si buoniva a piena, io vedi buoni di capolvere, chi dà cosa in la borra, in cascione o mattessi, a poi quella macchinetta lo sarrava, c'è casino, tagli da uscire. Ehi, Aruso. Sono lì che li abbracciavi, custodia giudizio. No, io per il fucile non ne ho mai caricato, per la pistola sì. Anche per quella ci vuole la macchinetta, no? La presa ci vuole, già ce l'ho io. Non vi sembra andando. Così è. Per la storia della gamba. Capito? Perché non è che fai tiro statico, dove vado io è tiro dinamico operativo, quello che insegnano le forze dell'ordine. Sembra non puoi fare che ti fermi e spari al bersaglio. Che se fermo, non puoi fare, ma forse chi devi fare? Io andavo là, sì che lo posso fare, anche là lo posso fare. No, problema. Noi ci sono anche le gare, noi facevamo pure le gare, non sono le medaglie che ho. Però passa la passione. La passione, la salute, così che... Sì, la salute più che altro. Si deve ancora parlare, andare a salutarlo a Gianfranco. E non sono ancora andato. Zona dove sono trattenuti. Sono sotto sequenza. Prima era la Crucca quel campo. Adesso invece è nella strada dei due mari. Dovrà decidere. Sì. Ma ci vuole l'abbonamento quando vai lì? Io c'avevo l'abbonamento, c'avevo. E se no paghi ogni volta che vai, 5 euro mi pare si pagava, se non va via l'abbonamento. Se va via l'abbonamento, ma tutto l'anno entravo quando mi pare e via via. È una passione di Sabugo. E io ci andavo spesso. Ovviamente con... Fatti il piattello bello. E dove adesso c'è anche il tiro al piattello. Ovviamente. E mi ha dato qualcosa in televisione a Rai, mi pare. Queste gare di tiro a piattello. Sì, c'è uno sport Barricchi, però. Probabilmente sono anche. Mio cugino andava a fare tiro al piattello. Lillino, il buon piedi. Cazzo, io aveva un fusile da 12 milioni. Io sono. Quando erano in lire. Qui sono scappati, io vi faccio vedere. E a caccia non lo puoi portare quel fucile perché è diverso. La è un po' in questo stato. E poi devi avere un armadietto, così per tenere queste armi. Per sicurezza è meglio averla. Ti pare che sabato sera in questa la cassaforte bisogna avere che si sono quelle per i fucili alle spalle o la vetrina blindata ovviamente. Ah, non è obbligatorio. No, non è obbligatorio. Però chi c'ha gente in casa è meglio che ce l'abbia, almeno sono chiuse e la chiave ce l'hai solo tu e non dovrebbe toccare nessuno. I nuovi vicini minori, i nuovi ne c'è solo mia moglie, poi ci sono le telecamere qua e la porta blindata, più sicuro di così. Perché insomma non lo vedi fidarsi. Lo so che non c'è da fidarsi. Ieri abbiamo aperto questa notizia, la signora. Infatti le mie sono custodite bene lo stesso. Due da sole in casa con i nipotini. Noi li può pigliare qualunque. Qualunque persona. Abbiamo detto che si cerca. Poi qua bambini non ne ho. Cioè, mia moglie sono le bue, la guida non ne ha fuggito più nulla. Perché ce le imboscate, diciamo così, Sono imboscate, sì, non le puoi tenere come facevano certi che se le attaccavano al muro i fucili e non le puoi tenere così, è illegale. Capito? Una macciata e buco in casa. E il nonno momento di l'andito, va a vedere via ficcato di l'andito così, con la cartucciera. Però non ci facevi caso, capito? Chiunque c'era lì non voleva dire a caso, forse perché si usava. Prima la attaccavano al muro, una belletta, però non lo puoi più fare. Con tutte queste cose sono succedenti. Meglio evitare infatti, perché se uno ti entra in casa vero ti dirà guarda sulla doia ma tessi. Sì, infatti. E passi al torto anche, come ti dovevi la tirare tu che c'era fuggendo. No, già ti puoi difendere. Quello là ha sbagliato perché se ne stava fuggendo e lui l'ha inseguito. Non lo devi fare, se lo devi dare a fuggire si fuggi, si è fuggendo. Perché non ti sta aggredendo. Se tu invece la ammazzi sparasse dentro casa. L'unica cosa, non lo devi sparare alle spalle. Sicuramente riservato. Lo devi sparare di fronte proprio. E serve proprio quell'allenamento che facevo io. Se non sei allenato è meglio che non agiti, sai, e che se non hai idratato i buttini. Ho capito, però è questione di allenamento, è questione che quando veramente non dovesse mai succedere, ma se dovesse succedere e te lo trovi di fronte, un conto è dillo, un conto è tirarlo per il letto, non è così quando fai una bassona a uccio. Come ti prendi in casa, la bisogna ciappare a uccio, non è così, no. Non si prende così il grilletto facilmente, la parola sì. No, meglio non premere il grilletto, magari si fa un mosso di luce per qui da fronte. Dipende da tutto come ti trovi, dipende secondo me da... Magari ti trovi nella situazione che Guido ha avuto appena avuto a tumulieri, sicché di nevi, soffio di pelle, perché secondo la situazione fa forza, magari il coraggio ti viene di sparare, per forza ti viene. Però se tu te lo trovi, che sei tu lì da solo, lo trovi che ce l'hai dentro casa, cioè, cosa fai lì? Non è a dire, è lo dirò, è a fare così. Io cerco di partire un fuggì, se non fuggi lo diro, la si prendo lo diro, era ammazzo buro, comunque è tesoro, io non lo manco, è troppo umano, ma poterlo mancare. È troppo vicino, e allora? No, oltre che ho imparato proprio a sparare da vicino, perché a sparare da lontano non serve a niente, e bisogna imparare quella tecnica di sparare da vicino, io già non lo sbaglio di sicuro. Però anche per lì bisogna dire cosa annisci dalla legge. No, se lo spari dentro casa non ti fanno nulla, proprio nulla. L'importante è che tu non lo spari alle spalle, perché se tu lo spari alle spalle vuol dire se ne stava fuggendo. Tu sei fuggendo da caro Fuggì, a tutti i zini. Ma io posso richiedere a curare i miei mulieri o aggredire la mia moglie. Cazzo, se ce l'avevo di spalle, cos'è di qua? Girati un attimino che ti vuol dire auguri. Cazzo, ma cosa stiamo dicendo? Se vengo che aggredendo non mi dico, ma se non è. Ti arrestano uscito di casa sua, e poi devi pagare i danni al coso, alla vittima. Hai compreso cos'è il discorso? Secondo me quello aveva fatto bene a sparare alle spalle, anche perché non sa se il giorno dopo sarebbe ritornato a fargli la vescia. Mamma mia. No, ha fatto malissimo, infatti visto che si risende giù, non so quanti milioni li devi pagare i parenti. E si è fatto pure la carriera, non salutassero. Anche a chi ti condanneggia, Nemi? Grosso, non ti puoi difendere, no. Ascolta, cazzo, condannano i poliziotti, condannano qua, non possono più lavorare, non se la devono neanche togliere la pistola, non hai capito? Io non so come facciano questi qui a lavorare in queste condizioni, che adesso ci hanno messo il coso, non lo vuoi manco ducare, se no è tortura. Aspetta, lì che lo film, andare ma arriverà, che su film io vi troverò, non è mica su film. Attaccando un po' di lanci, la puccia attaccata dei morsetti correnti, a farlo da vita. Non lo puoi fare, adesso non lo puoi manco toccare. A chi si nesce con un segno poco, cazzo di denuncia se ti condanneggia, né? A chi dici che lo sei torturendi? Prima in questura ogni asusa gatto manco te ne accusavi. L'ho fatti cantare. È vero, ma da rega in questura ti curi una asusa e oioia. Una cosa manco tre, però tu a casa dove non mi educa. Guarda, se ti vedono in strada che lo stai maltrattando e cosa, ti denuncia a cazzo e dopo arrestano a te perché lo stai torturando. Buffonelli, come fanno a lavorare queste povere persone? Non lo so in queste condizioni. Poi sono un bucio londese, non è vero? per evitare di usare la pistola, che prima lo diceva neanche, aveva pane un laser in America, poco il trattamento. Per evitare di usare la pistola, però in America sono più, vedi, in America solo i poliziotti possono sparare alle spalle, se sei fuggente di lì la metà ammazzano, compreso Inoghi, no. Infatti, si solamente nel burro, che non possono difendere, non possono difendersi. Se tu ripari a Re San Matteo, Crudo Codizelli, come fanno a lavorare queste persone? Non ho capito. È logico che si lamentano, perché in queste condizioni, con questi giudici che abbiamo in Italia e con questa legge, non si buca. Addirittura prima mi durava 6 anni, lo posso dare, ma vanno anni carato di un anno. Ogni 5 anni il rinnovo. E chissà volta, l'ultima volta mi l'abbiamo dato in una chiesa, era pronto. Allora, sai, 2 mesi ho dovuto aspettare. E possono farti aspettare fino a 3 mesi pure. Ma se lo rinnovo a fare, Natali, si dà dopo di più. E quindi la batteria così là. No, che non le puoi più tenere con la denuncia solo, perché sennò devi presentare gli stessi documenti che si presentano per il rinnovo del porto d'armi. Conviene rinnovare il porto d'armi, una volta che riesci a venderti le armi non ne rinnovi più. L'ho rinnovato per quello io, così arma con lui non ha giù e non ne rinnova giù, ma mi rendo tutto. Che per 5 anni adesso si è a posto e poi non ne rinnovi più. Beh, in effetti, cioè, tenerle per che cosa? Alla fine, adesso io non so quanto è il rinnovo, cioè se ne vale la pena un ingegnere rinnovo, perché non si sa mai che per sicurezza in casa mi avvengo. No, fatti nulla, deve avere un buccio d'arma, sennò devi presentare gli stessi fogli che ci vogliono per rinnovare il porto d'arma, capito? E non farli, è meglio avere un buccio d'arma, non va così in regola. E tu non c'è il porto d'arma? Sì che ce l'ho. Dico, che tu lo tieni per sicurezza in casa, diciamo, questa cosa qui. Perché intanto se la cosa non ci vai più per problemi anche di, soprattutto di salute, direi su, ma per sicurezza vai. E la detenzione. Adesso ci siamo ancora di Adele Donna, capito, di questa vicenda. Che però già ci andrò, non è che non ci vado, ci andrò di meno. Adesso vediamo un po' come va questa storia, non lo vedo come di visita ogni tanto faccio una visita. Vedevo se riusciamo a punire a posto chi stanca e operarmi chi c'è aneurisma, chi faccio. Adesso quelle tacche mi servono per quel motivo lì. Davide, mi tocca andare a pagamento, se non riesci a farli. Quando lo stavo facendo tacche, io c'è un tipo che era la carrozzina ed era la terza operazione che si faceva a gamba. Appunto perché c'è questo, si chiude, non so, gurosa, e sì che lo dovevano operare di nuovo, però prima dovevano fare l'attacco. Sì, è un grillo. A me mi devi per 3 mesi che devo fare la visita attorno, no? E ci vuole l'attacco. Prima devo fare la creativina, devo fare, perché vogliono vedere quella quando ci devono fare l'attacco col contratto. Sì, prima di fare quella, devi fare il prelievo. Prima, anche a me l'hanno fatto così, quando lo fai con mezzo di contratto, la creatinina. Sì, la creatinina, è quello lì, lo devi fare quello lì. Ah, va, ma vediamo se riesce a farmi la vacca, la devono fare all'addome e al torace, quindi sarà un attacco sotto al body, lo devo fare con e senza il contratto. E ti mandano il calore. Cazzo, va giù un caso, qui su coso mio, è roba radioattiva. Chiaramente. Non so. Eppure la prima volta sì, mi sono poco assustato prima che si era giocato col contrasto, che senti mi sciogare ora accendi. Oh mamma mia! Sì, sì, fino a quando mi hanno operato. Lo sente fragile, quando ho avuto l'infarto. Roba di gas, mamma mia. Dopo le ultime, dice, hanno iniettato quella roba lì di, per il contratto. Di più. E poi c'è una voce robotica che te lo dice. Perlomeno, adesso quando l'ho fatto io la sacca era una cosa che parlava. Io l'ho fatta da poco, una, 3 mesi fa l'ho fatta, adesso ne devo fare un'altra più completa di molti. A chi dai mai arrivati era solo ballata, invece chissà, all'addome ancora, quindi me la faranno a tutto il corpo praticamente. Perché se non mi fanno prima l'aneurisma non possono intervenire per la gamba, capito? Là? Se no è un caso. A chi me l'ha detto la chirurga? Ha voluto che lui interrompesse anche le cure, devo farmi una e l'altra per forza. E come sempre una voce di sappano e artiri andando tutto bene, io non c'è l'interesse economico, torni normale come di prima. Il più pericoloso è l'aneurisma, che se scoppia quello chiudo bottega. E anche la mezz'oretta mi sale dentro la macchina, allora se tenevamo a fare con e senza mezzo contrasto che dura le 10-15 minuti l'una, sì, una mezz'oretta sì devo stare, che lui voglia essere portato, cioè, e mi sembra che l'ultima fase della vita, per dire, figli prediletti. Ma non mi sembra vero ritornare a camminare, Luca. Guarda che fai pochi metri si viene un dolore allucinante. Ma allucinante a vivo. Immagino. Rega due sigarette. E lì ci bisogna da Gallino Mattese, solo con tutti i rigiramenti delle palle. Che ha già avuto uno per trasmettere. Ora con l'elettronica, sono innamorati di lui. Ho provato, visto l'elettronica, manco Maricato, non funziona. Ci vuole forza di volontà, perché io ho mollato il fumo di colpo. Quando molla mi disturba cosa gli aiuto da che cosa di brutto si sta succedendo, diventa che di mollare la veozia. No, mi mollano da solo, ma lo sa, lo fica, durante il lo fica, tu si ne andende, che ezza, qui si sono succati, hanno mollato. Ma poi mi dice, però, con il tempo, che erano ancora vivi, hanno trovato a me. Imbriachi di prima, io lo so. Almeno quello non ce l'ho io, che non bevo un cavolo. Ma dico, l'esempio è quello, Natali. Tu adesso ti sei spaventato, hai mollato, come ha fatto mio padre, ma te, si papà, aveva fatto un sì, in tuo ricto si aveva mollato la sigaretta, l'alcol, ma babbo voglia, babbo più gerba forte. Da su su anche infarto, due ictus, a vedere sta su che è. Sì, è un grido. Già lo credo già. No, io ho mollato 8 mesi e poi ho ripreso a fumare. Che birla che sono stato. E che devo essere tranquillo io, gatto, per poter mettere. Ma sei tranquillo, sei in pensione, non fai trattamenti di gabbie. Ti devono far spaventare bene, perché sennò, capito, allora si molla, allora riesce a trovare la volontà. Se no la bassano i mesi, arriveranno e fai un tiro, e fai l'altro, e torni più di prima. Perché vedi che comunque c'hai bene. Ehi, già lo sai, più di quello che non mi hanno fatto spaventare. Se non risolvo questa cosa, poi il dolore ti viene continuo, non quando cammini. Dopo ti viene continuo, ma adesso la chirurga, cosa di grido? Devo cercare di smettere per forza, volente o nolente, ma cosa, se no se ti vieni in siduro ribisi non duro me ne manco, duro di ghi, mica è un duro allucinante. Sì, ma anche se tu avessi smesso di fumare, l'odore non credo che avessi impirato qualcosa di fumelli, no? È pericoloso, non devi fumare, fa cosa dici che ti si danca nelle arterie, di tutto e sei buttito. Anzi, bisogna cammino murumè, in modo che si riaprano altri vasi sanguigni, mi stava dicendo. Sì, ma non ti va a camminare se ti va di mano? male anche, cioè boh, quello sì, allora se tagli tu così, Natale, non rischiare, cioè non far sì che ti venga a casa, che te la si difenda allora. Sì, ma è troppo un rompimento di balle. Se ti stato tranquillo, avevi smesso, come ti ha già smesso la travoccia, avrei smesso anche adesso. Troppi giramenti di balle, uno deve essere capisano. Allora, Marco Marbello, perché questa notizia di oggi non è facile, no? È peggio della droga, fa discutere. Immagino. Ma se cagi malato da voi, cazzo. Già aveva tua moglie lo goso, Natale, meno è uscimi. Cioè, lì mi sembra pura edda, che se tu cagi malato, come ti faccio da giù? Sì, ha ragione, infatti noi. Ma deve camminare, quando gli fa male si ferma, aspetta che gli passi il dolore e ricomincia. Così mi ha detto. Prova a camminare, magari ti fanno passeggiare, mangiano amici, a cosa andava a pensare via Boggino, Badì, era un dorendarino, capito? Sembra facile. E andando a casa, come erano i boghi, li passano i midini a Nazareth, di canto camminavo in vecchio. Ma proprio come Marco. Eppure, vedi. Poi uno guarda il... Mi sei bloccato, c'è un cazzo di arteria, di Lanca. Il principe. Lui Sanca. Che tu mi sono busato e sono capuccio. Però se tu ti dai ti devi camminare. Non è che sto fermo, no, già cammino anche in casa, non è che non cammino. Ecco, però c'è caso, questo è un po'. Cazzo, se cammi sempre busato senza camminare, guai. Sì, ma in casa cosa puoi camminare? Ma Antonio, cosa cammini in casa? Sembri di comprare la cicletta per camminare. No, ce l'ho la cicletta, ma non ne uso, perché intanto mi viene subito il dolore, no? Sì, no, quando fa bel tempo me ne scendo a Platamona al limite, mollo la macchina all'inizio e vado al bar a piedi e poi me ne torno, l'ho fatto l'altra volta non mi va, e non mi ha fatto niente, l'importante è camminare piano piano, non si pone a camminare a passo svelto, se no subito ti viene il dolore. L'altra volta ho fatto così, mi ho messo la macchina lontano vicino allo camper di Antonello che era all'inizio e sono andato fino al bar a piedi, mi ne tocco due rande a piedi e non mi ha fatto male la gamba. Bisognava così. Ma bisogna farlo, insomma, non una voce all'anno. Ti mi abbassione appunto di questa pesca. Il camminare, vedi, con quella scusa fai inutile al dilettevole. Infatti. Molto male. Quando fate tempo freddo gli andi, non è ricendi, io paro freddo che la vendi, è tempo male. Allora, se fate tempo freddo gli andi, io la macchina mi fisso lì a Platamona minnando. Ogni giorno. Allora sto finendo un ristorante, che mi sa come ti andrà a finire questa cosa. Chi so? Sa che l'hanno dato, ma cosa chi so era di Ernesto, era. Cioè di Ernesto, di un comune era. Di quando è venuto la valenda del comune avevamo fatto un sopralluogo, un tipo, era del comune, non era su, lui pagava l'affitto. Sì, ma tutto un 448, Cioè, vedi, vi abbiamo pettine, non hanno impatto di soggoso, questa struttura, è tutto così ammontonato, vedi da solo il ristorante, sempre lì per andare più pettine, sarrando, che c'ha tutti i tavoli, le vetrine, bello quello. E anche quello è chiuso. Chi ce l'hanno fatto? Tata, lampado e costruendo. A cavalla fila faccio qualcuno. Noi stessi per un comune, no, se no è stato tutto diroccato. Ah, che si vede che ha fatto il giunto commerciale, lo mattessi, una struttura così bella. Speriamo che lo finiscano questo ristorante, che lo facciano bello. E poi serve lì. Chissà se è la randa, prima sì che la vedo io, veramente quando facevano i concerti, facevano le vaccarelle, verano, dare in croce, pensa tutta la ragosa, e gli sassani si varavano, a vedere i concerti, i fuochi d'artificio, per carità. Attenzione, il falegname dei punti. Sì, non ti dà udienza stasera, no? No, no. Beh, si accoccia a Eddo, a che va la bella temmata. Sì, sì, che... Non ci dà udienza a questo Giulia. Un bolino deve essere travagliendi. Un bolino grazioli. Eddo, non lo so. Se non è con Paolo neanche lui. Tutto e tre. Robbo, la penso no. Prendi quella di burro. No, me travagliendi, Prendi dondolo. Vai, babù di famiglia. Allora, e devi darsi da va. Sicuramente la prima. Meno male che un ragazzo responsabile. Io è un lavoratore. Io è un lavoratore, ma la sorte. Sei sempliciato, pizzino di travagliatori, isso. Oh, paone! Oh, paone! Sempre traffico. Oh, paone! Oh, yeah! Oh, c'è che paone! Ma, giù del malganto, noi burro, non è tanto.